Prima edizione. Le 6, 13 minuti e 24 secondi e si è conclusa nella notte, notizia arrivata poco fa, una massiccia operazione di controllo della Guardia di Finanza a Venezia. Il bilancio di 30 persone prevalentemente extracomunitari identificati che vendevano prodotti contraffatti o in violazione del codice di consumo. Sono stati sequestrati circa 65.000 prodotti, praticamente di tutti i tipi, da maschere per il carnevale a capi di abbigliamento senza le indicazioni previste appunto dal codice di consumo. Questa è la notizia che arriva da Venezia. Adesso ci sentiamo come vanno le cose su strade e autostrade. Come abbiamo sentito, si rischia di prospettarsi una giornata piuttosto difficile da quel lato. Poi ci ritroviamo per fare un punto su quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 17 minuti e 28 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Noi adesso ci andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che oggi troviamo in edicola, o almeno dei principali, per vedere un po' quali sono le aperture e le scelte. Allora, il Sole 24 Ore decide di fare una cosa diversa e di non partire da Obama e Monti, dall'incontro tra Obama e Monti, che invece è a centropagina. Il titolo è Obama Monti, ottima partenza piena di fiducia, ma il tema che decide di affrontare in apertura il Sole 24 Ore è proprio la questione greca. Accordo greco sotto esame europeo, sotto esame UE. Governo e opposizione approvano i nuovi tagli, ma l'Europa rinvia l'ok agli aiuti. La Banca Centrale Europea apre sui bond di Atene in portafoglio, dice però non accettiamo perdite. Le banche italiane 70 miliardi di liquidità addizionale. Ci sono dei servizi speciali all'interno, dei chiarimenti, delle analisi, come quella sulle manovre a confronto. Atene più timida di Italia e Spagna sulla riforma delle pensioni. Si parla delle mosse di Francoforte, quindi della Banca Centrale Europea, tassi fermi, avanti con i prestiti agli istituti. E poi la questione delle ricapitalizzazioni delle banche, via libera dell'EBA ai programmi delle banche. Il commento di prima pagina a firma di Alessandro Merli sulle reazioni europee, la diffidenza dopo le delusioni. Titolo anche per lo spread che scende a quota 347, vicini i bonus spagnoli, questo scrive il Sole 24 Ore, gli stessi livelli di inizio settembre. C'è anche spazio per un titolo dedicato al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che dice il lavoro sia più flessibile. Marcegaglia dice incontro utile con Fornero, anche l'articolo 18 è sul tavolo. Il Corriere della Sera invece sceglie più tradizionalmente, se vogliamo, l'apertura per quanto riguarda, per quel che riguarda Obama, l'incontro tra Obama e Monti. Stati Uniti e Italia mai così vicini, il presidente riceve Monti, saprà guidare il paese fuori dalla tempesta. Le scelte. E poi c'è un titolo dedicato alla copertina di Time. Il titolo, perché la copertina di Time, o almeno nell'edizione che esce in Europa, perché non è così per l'edizione americana, riporta proprio Mario Monti, ed è con un titolo Può quest'uomo salvare l'Europa? Il titolo del pezzo è a firma di Beppe Severgnini, e il nonno elegante finisce in copertina. Nonno elegante perché queste sono le parole utilizzate proprio dalla rivista Time. A centropagina una foto di Steve Jobs da giovane. Perché? Perché ieri è stato diffuso il dossier che l'FBI aveva su Steve Jobs, e il titolo è Quando Jobs era drogato e disonesto, un uomo pronto a distorcere la realtà per raggiungere i suoi obiettivi. Così l'FBI giudicava Steve Jobs nel 1991. In un dossier di 191 pagine realizzato quando si parlò del padre della Apple come consigliere del presidente Bush Senior. E poi il titolo dedicato al maltempo, arriva il blizzard, ormai più o meno lo sapete che cos'è, è una nevicata col vento sostanzialmente, una nevicata con neve gelata e col vento. Il governo dà più potere alla protezione civile, Aldo Cazzullo firma un commento: l'ondata di gelo e di isteria, di taglio basso troviamo una storia che arriva, un racconto di Gian Antonio Stella su il declino della sapienza, si parla dell'Università di Roma all'ombra di Parentopoli. La Stampa ha un titolo forte a centro pagina, il titolo, quello che potremmo definire di apertura vera e propria, dedicato ad Obama e a Monti, la crescita imperativo comune. Obama che dice: ho fiducia, Monti porterà il paese fuori dalla tempesta. Il premier alla Casa Bianca: gli Stati Uniti ci vedono come partner importante in Europa, siamo più credibili sui mercati. Intervista all'ambasciatore, al ministro degli esteri Giulio Terzi: cruciale il nostro ruolo nell'area araba, il ministro incontra la Clinton, l'America ci vuole in prima linea. E però in alto troviamo un titolo dedicato al maltempo: niente scuole e uffici, l'ondata di maltempo colpisce il centro-sud, Roma chiude per neve, attesi 30 centimetri, Alemanno schiera 6.000 uomini e 600 mezzi. Taglio centrale c'è legge elettorale prima intesa, piace ai partiti il testo di Violante sul proporzionale, sì allo svuota carceri, e poi appunto Atene via ai tagli. Il buongiorno di Massimo Gramellini è dedicato alla copertina di Time, quella che, nella quale c'è Mario Monti, e il titolo: può quest'uomo salvare l'Europa? E però accanto c'è l'ultima copertina di Time dedicata ad un premier italiano, ed è quella dedicata a Silvio Berlusconi, e il titolo era: l'uomo dietro l'economia più pericolosa del mondo. Questo il raffronto che mette in pagina Massimo Gramellini. La Repubblica, apertura: Monti Obama, patto per la crescita, il presidente americano: mai così forti i nostri legami, il Fondo Monetario promuove l'Italia, un commento in prima pagina firma di Vittorio Zucconi, il professore che piace all'America, un racconto di questo incontro tra Monti e Obama, un retroscena firmato da Federico Rampini: caro Mario, hai fatto una partenza a razzo. Mario, il lavoro che stai facendo in Italia è eccezionale, mi è piaciuta la tua partenza a razzo, hai tutto il mio sostegno, dice il presidente degli Stati Uniti Barack Obama a Mario Monti. Anche qua un titolo su questo mitico blizzard ormai, appunto questa forte nevicata con vento, come sappiamo, insomma, nella notte è già iniziata a cadere neve in parte d'Italia, è nevicato a Milano, sta nevicando in una parte dell'Emilia Romagna sulle autostrade, e più avanti faremo gli aggiornamenti e più avanti sentiremo anche come stanno andando, come al solito, le cose su strade e autostrade dai colleghi di Strade in Diretta. Arriva il blizzard, gelo polare, neve, Roma chiude scuole e uffici, la Cancellieri che dice: eventi eccezionali, rimessa in moto la protezione civile. Naturalmente la questione della Grecia ancora in prima pagina, l'intesa sul debito non convince l'Europa, e la polemica che riguarda l'addio di Capello al nazionale inglese. Non difendete Capello, il razzismo va punito, e il titolo è di Francesco, il pezzo è firma di Francesco Merlo. Lo sapete, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Fabio Capello ha lasciato la nazionale di calcio inglese perché John Terry, che era capitano della nazionale inglese, aveva detto una frase razzista ad un altro giocatore, la federazione aveva deciso di togliergli la fascia di capitano. Capello ha detto: su queste cose decido io, io e aveva deciso di andarsene. Dunque, non difendete Capello, il razzismo va punito, è il titolo del pezzo a firma di Francesco Merlo. Naturalmente il Messaggero ha in come titolo forte in prima pagina la neve a Roma, torna la neve, Roma chiude scuole e uffici, allerta in tutto il centro per, aperte virgolette, un'ondata eccezionale, soppressi treni regionali. E poi un racconto del coordinamento restituito appunto alla protezione civile. Anche qua in primo piano, e non poteva essere diversamente, Obama che dice fiducia in Monti porterà l'Italia fuori dalla tempesta, uniti per salvare l'euro. Anche qua in primo piano i dubbi dell'Unione Europea sull'intesa in Grecia. E c'è una cosa che non troviamo in realtà su altri quotidiani e che ci sembra piuttosto interessante, sono le nuove accuse a Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, come sapete, accusato di aver sottratto 13 milioni di euro alle casse del partito, accusato, in realtà reo confesso. Il titolo è Il PM, un'altra villa comprata ai Castelli con i soldi del partito. C'è spazio anche per un titolo per la Lazio. Lazio rimonta da grande contro il Cesena da 0-2 a 3-2 in 10, decisivo Kozak. Ora, l'altra cosa che vi vogliamo segnalare invece dai quotidiani internazionali e soprattutto dai siti dei quotidiani internazionali, una cosa che è uscita da poco ed è una cosa che pubblica il Washington Post. Secondo fonti del Washington Post, l'ufficio che si occupa dell'etica dei membri del Congresso, ossia dei deputati americani, degli onorevoli americani, se così vogliamo dirla, che cosa sta facendo? Ha aperto un'investigazione, un'indagine sul presidente della House Financial Services Committee, che è il comitato che si occupa del controllo sui servizi finanziari, un potente comitato che si occupa del controllo sui servizi finanziari, un comitato parlamentare. Ebbene, per cosa? Perché avrebbe violato le norme sull'insider trading e quindi norme finanziarie. Prima edizione. 6:35 minuti esatte e adesso ci sentiamo Italia in controluce. Italia in controluce. È il mattino in diretta di Radio 24, in studio Daniele Biacchessi. Il tema dell'evasione fiscale entra anche nel mondo della scuola, il reportage di Piera Ceci. Chi non paga le tasse depriva le casse dello Stato di possibilità di finanziare servizi e lavoro e quindi toglie futuro soprattutto alle ragazze e ragazze. A parlare così l'assessore al bilancio della Regione Toscana Riccardo Nencini, che ha voluto portare il tema dell'evasione fiscale nelle scuole attraverso uno spettacolo teatrale Evasi Fiscali, realizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza. Sulla scena gli attori Carlo Monni e Andrea Bruno Savelli, che ha deciso di spiegare un tema così delicato ai più giovani, partendo da un esempio. Molti di voi hanno il motorino, a tutti sarà capitato di portarla a riparare dal meccanico e alla maggior parte di noi è successo di sentirsi dire se vogliamo la ricevuta oppure no. Con la ricevuta c'è un prezzo, mettiamo 15 euro, senza ti chiedono 10 euro, a tutti viene istintivo di cercare di risparmiare quei 5 euro, ma quello che crediamo essere un risparmio in realtà non lo è. Perché? Perché questa storia che tutti cercano di evadere le tasse va avanti da 20-30 anni, lo Stato non riesce più a tappare le falle e è costretto a eliminare i servizi. E quali sono i primi servizi che elimina? Sono sempre i soliti, la scuola, l'istruzione, l'università, la ricerca, cioè tutto quello che vi può garantire un futuro. Ecco che quello che può sembrare un risparmio immediato, in realtà è un'enorme perdita nel futuro di ciascuno di noi. Insomma, è particolarmente importante spiegare proprio ai più giovani quanto sia grave evadere le tasse. Paola Salvadori insegna economia aziendale all'Istituto Professionale per i Servizi di Scandicci in provincia di Firenze, dove si è tenuto lo spettacolo Evasi Fiscali proprio qualche giorno fa. I ragazzi devono capire che il luogo comune, che chi evade è furbo, non regge, non paga e nasconde in verità un grosso furto. Ecco, che sensazione hai? I ragazzi conoscono l'argomento, ne parlano in famiglia, oppure sì, sgranano gli occhi e non capiscono di che cosa stiamo parlando? No, sono estremamente sensibili, in classe vogliono sempre saperne di più, vogliono sapere come funziona, vogliono sapere che cosa succede effettivamente quando vanno dal parrucchiere e il parrucchiere non gli fa la ricevuta fiscale o gliela fa più piccola. L'osservazione che loro fanno è che notano, per esempio a livello di scontrini fiscali, loro notano che e si stupiscono davanti al fatto che, per esempio, se non ricevono uno scontrino per un gelato, allora vuol dire, e mi guardano con gli occhi sgranati, dicono se stessa, ma allora vuol dire che noi abbiamo pagato l'IVA e quell'IVA, invece di essere andata allo Stato, è andata in tasca al gelataio. Era la prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi 13:30 a Radio 24. Minuti e 25 secondi, una notizia in arrivo dalla Cina, aumentato il surplus commerciale cinese a gennaio, mentre scendono importazioni ed esportazioni. Secondo i dati riportati dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, il surplus ha raggiunto i 27,28 miliardi di dollari in gennaio rispetto ai 16,5 dello scorso dicembre. E ora parliamo della visita di Monti negli Stati Uniti. Con Mario Platero, inviato del Sole 24 Ore da New York a Washington. Buongiorno Mario, innanzitutto. Buongiorno Simone, eccoci. Allora, facciamo un punto su come è andata questa visita di Mario Monti a Washington e questo incontro con Obama. Le parole che ha usato Obama sono state lusinghiere per il Presidente del Consiglio. Beh, direi sì, sicuramente molto lusinghiere, alcune di queste sue osservazioni le conoscevamo già, insomma ha dato un forte appoggio a Monti, ha detto appoggerò il governo Monti, sta facendo delle cose straordinarie, i programmi funzionano, ma al di là di queste parole che in qualche modo potevamo aspettarci, fanno parte così di un rituale che naturalmente in qualche modo diventa quasi normale nel momento in cui due capi di governo si incontrano. Ecco, al di là di questo ci sono alcuni aspetti sia di forma che di sostanza che mi hanno colpito. Ecco, dal punto di vista dell'accoglienza, non ricordo un altro leader italiano che è arrivato in un momento così delicato per la congiuntura internazionale e che è stato accolto alla Casa Bianca con un certo senso di aspettativa sia dal punto di vista delle idee che dal punto di vista della cooperazione con gli Stati Uniti e con l'Europa. E dal punto di vista della sostanza, devo dire che c'è stato di fatto un patto per la crescita fra Barack Obama e Mario Monti. Io ero nell'ufficio ovale alla Casa Bianca quando i due leader hanno parlato e hanno un po' raccontato quello che si sono detti e quelli che sono i loro obiettivi e devo dire che sul fronte della crescita c'è non soltanto una concomitanza di idee e di vedute, ma c'è chiaramente un piano, un progetto per poter dar corpo a delle idee che inevitabilmente dovranno anche coinvolgere la Germania e gli altri paesi europei. Ecco, emerge dunque questo ruolo di ponte di Mario Monti, un ponte fra gli Stati Uniti, fra l'Europa e lo stesso Monti ha descritto, devo dire con molta intelligenza, perché poi è andato a toccare dei punti importanti per i suoi interlocutori, per la Germania ad esempio, ha invitato quasi in modo virtuale sul palcoscenico americano alcuni dei protagonisti italiani che lo sostengono al governo, che lo aiutano a portare avanti i suoi progetti, per esempio Berlusconi, al quale ha dato credito pubblicamente di aver iniziato il processo di riforme che lui poi ha continuato a portare avanti, per esempio nei confronti dei sindacati che sono stati elogiati per aver capito che la sfida che l'Italia sta affrontando è una sfida epocale alla quale nessuno può mancare di fare la sua parte. Ecco, quindi ha dato un quadro a tutto tondo Mario Monti al presidente Barack Obama. Ecco, ecco Mario, l'impressione nell'incontro di ieri è che Monti si sia fatto, anche da quel che ci stai dicendo tu, in qualche misura portavoce dell'Europa. Sì, Monti è arrivato come ambasciatore europeo, sai, ecco, Monti direi che è meglio essere prudenti su questo. Monti è sempre molto attento a non eccedere, a non rivendicare meriti o ruoli che non gli appartengono, preferisce l'understatement al boasting, come si dice in America, cioè al vantare cose che non gli appartengono, ma nei fatti è così, nei fatti oggi è arrivato alla Casa Bianca un leader europeo. Grazie, bene, grazie Mario, scusa ti interrompo, però i tempi stringono, sono le 6:43 minuti e 5 secondi e cambiamo argomento e veniamo all'Italia. Veniamo all'Italia perché, come si diceva, è arrivato questo benedetto, diciamo così, ecco perché l'abbiamo sentito questa parola fin troppe volte, blizzard, questa che poi alla fine è neve col vento tutto sommato. Valeria De Rosa, buongiorno, come stanno andando le cose? Buongiorno a te Simone intanto e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, finalmente è arrivata questa nuova ondata di maltempo, così speriamo anche di lasciarcela alle spalle il più presto possibile. Ha nevicato nella notte in Lombardia e in Emilia-Romagna, in questo caso si è trattato anche di nevicate intense, nevica anche a Venezia e su parte della pianura veneta. La neve, accompagnata da un forte vento, sta imbiancando i tetti e le cali della città lagunare, dove già da alcune ore sono entrati in funzione i mezzi spargisale. Analoghe situazioni nel Rodigino e nel Trevigiano. Al momento però non sono segnalati grossi problemi. Grande mobilitazione a Roma, dove sono attesi svariati centimetri di neve, 30 secondo il sindaco, staremo a vedere. Chiuse le scuole e gli uffici pubblici, mobilitazione anche in Campania, dove sono attese 48 ore di forte maltempo. E allora diciamo che questa emergenza dovrebbe colpire soprattutto il centro e le regioni adriatiche. Queste nevicate accompagnate da venti molto forti si verificheranno sul nord-est, in Valpadana, in Emilia-Romagna, in Lombardia e appunto sulle regioni adriatiche, e poi pian piano la neve arriverà anche al sud. Attualmente non ci sono problemi sul territorio nazionale né per quel che riguarda la rete autostradale, dove comunque sono previsti dei fermi temporanei preventivi per quel che riguarda i mezzi pesanti, né attualmente per quel che riguarda la rete ferroviaria. C'erano stati molti problemi, lo sappiamo, soprattutto per quel che riguarda lo snodo di Bologna, però attualmente non ci sono problemi. Prima edizione. Le 6:47 minuti e 38 secondi, adesso ci prendiamo un attimo di respiro dalla stretta attualità, perché oggi è una ricorrenza particolare, è il giorno del ricordo, il giorno nel quale si ricordano le vittime delle foibe. Cosa sono le foibe? Sono degli inghiottitoi carsici, delle cavità carsiche di origine naturale, con un ingresso a strapiombo in queste voragini nell'Istria, che fra il 43 e il 47 furono gettati vivi e morti quasi 10.000 italiani. Allora, ne parliamo con Dario Locchi, che è segretario generale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Buongiorno Locchi. Buongiorno. Noi non abbiamo tantissimo tempo, a dire la verità. Io quello che voglio capire da lei è quello in cui voglio chiederle aiuto è di dare uno sguardo sul futuro, insomma, voglio dire, la storia c'è, è là. Mi sembra che quello che le possiamo chiedere è darci una mano a riportare questo, ecco, ai prossimi anni, all'attualità e ai prossimi anni. Certo, c'è in futuro la scommessa fatta sui giovani, dato che abbiamo il 57% della popolazione che non conosce ancora questo argomento. Noi abbiamo scommesso sui giovani nelle scuole per fare in modo che tutta l'opinione pubblica venga a conoscenza di questo argomento. Ecco, dal lato invece di quella che è stata per anni una ferita aperta nel cuore dell'Europa e misconosciuta, ci sembra invece che passi avanti forti ne siano stati fatti. Sono stati fatti grandi passi avanti perché in questi 8 anni, da quando è stato istituito il giorno del ricordo, siamo passati da un 8% della popolazione che conosceva la parola foiba al 43%, quindi questo per noi è motivo di soddisfazione. Questo appunto dal lato della conoscenza, ma anche a livello politico, insomma, no? Mi sembra. Anche c'è delle tensioni, come dire, che c'erano, si sono progressivamente sopite. Esatto, l'intervento degli storici, assolutamente quindi equilibrati, ha fatto in modo che al di là di quale sia lo schieramento politico, ormai è permeata la storia che è assolutamente neutrale, cioè che riguarda dei civili morti innocenti, e quindi non c'è più una battaglia politica su questo argomento. Grazie a Dario Locchi, segretario generale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per essere stato con noi e anche per la rapidità e precisione delle sue risposte, che in radio è particolarmente importante. Sono le 6:50 minuti e 30 secondi. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. È tutto per Prima Edizione, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.